non si capisce per fare un discorso che tra l'altro non so fare, ma voglio dire che io sono qui per la vecchia amicizia con Antonio Castelli e per l'ammirazione che ho per lui come scrittore. Posso anche dire di avere conosciuto prima lo scrittore che l'amico, perché l'ho conosciuto sulle colonne del Mondo, giornale che gli era molto congeniale, io penso, in cui ha fatto le sue prime prove. Poi sono venuti i suoi libri e la mia estimazione per lui è cresciuta. E ora posso dire di essere amico dello scrittore, dell'uomo, in un modo totale, totalmente affettuoso e solidale. Ecco, mi compiaccio, devo dire, con l'amministrazione comunale di Cefalù, col Consiglio Comunale di Cefalù, che ha sentito questo, direi, dovere di riconoscere come è nato in questa città Antonio Castelli, che da questa città ha tratto tanta ispirazione. Il mio compiacimento viene anche dal fatto che 50 anni fa cose simili erano addirittura impossibili. Lo scrittore era considerato un corpo estraneo alla città in cui viveva. Si racconta che Verga, che frequentava lo stesso circolo sempre nei pomeriggi a Catania e sedeva sempre sulla stessa poltrona, quando morì e un socio propose di isolare quella poltrona, il presidente del circolo rispose: se lo faccio per lui, lo devo fare per tutti i soci che muoiono. Quindi i tempi sono effettivamente cambiati. E tanto per divagare, perché immagino che Castelli in questo momento, a sentire parlare di sé, forse un po' soffre, come ogni persona sensibile soffre quando si parla di lui. Per divagare un poco, voglio ricordare che a Cefalù è nato Illo Duca, famoso nella storia dell'erotologia contemporanea, che ha diretto per l'editore Jean-Jacques Pover quella collana di erotologia che noi in tempi più puritani andavamo a comprare in Francia, e che questa sua vocazione all'erotologia in qualche modo idealmente si collega al soggiorno di Crowley qui, per cui una piccola simbiosi lo duca Crowley, e pensando un po' a questa casa che Crowley abitò, è cosa che dovrebbe sollecitare un'amministrazione. Ma lasciando stare questa divagazione, io torno a compiacermi con questo civico consiglio che ha dato questo riconoscimento sostanziale, un fatto che direi preesistente, l'essere Castelli di Cefalù, in simbiosi con questa città, che ha rappresentato nei suoi aspetti che possono anche a volte apparire ironici, satirici, ma sono sempre affettuosi, e vedo che è un affetto che la città oggi pienamente ricambia.